Reggia. Invece da chi le può dar Reggia nel gruppo? Che altro funendo? Lui a trovare non ha buffoneggio, cioè, poi con l'italiana che è la migliore trovare che esista. Ci sono bisogni che stanno caldo, ti va di meno voluto, ti va. C'è nel pure la rito, cazzo, me ne sono giunti. Da dietro mi hanno alzato una paletta sulla 131 vicino al CDC, lì, mi hanno fatto accostare e mi hanno controllato tutto. E meno male non c'avevo niente, che stavo rientrando. Però sei stato sovraccarico. Sì, sono sovraccarico. Sì, non riesci a attaccare i cosi di sportelli, cazzo, di Darito. Cazzo ti acciacconati, sono questi risportelli per frutta, se ti prendi da caffuzza. Di cazzo roba via. E l'ho abbandonata di lì, il cazzo l'ho abbandonata, spero non riesci a attaccare gli sportelli, che non va via nulla nella macchina. Ah, sacca la tagliata la roba. Ci sono così zenni, guarda, era una cosa inverosimile. Chi su un furgone da cui pulire cazzo di essere affittato, pioveva sia nel vano di guida che nel vano merci. Cazzo, infatti una voce a me mi aveva detto cazzo di tagliare in fusa la roba, e se la intendi, no? E allora io ho telefonato a Cristian e ho detto, oh Cristian, guarda, questo sta lamentando e la roba è tutta bagnata qua, perché cazzo ci piove dentro in questa macchina, io te l'avevo detto che si fa pratica. E la lì, mi ha pagato la Gusso, e sì che mi ha pagato, e allora andava le tipa che ricordai. Prima necessari, poi il resto. Come infatti? Ma tu non ce l'hai una da 48, la farò fare. Ma la cosa sempre quella, ma poi c'è appunto canali, radio e mix, vabbè, da modificare, a farlo vario come il tuo. Poi basta, cioè ci vuole l'ecco, basta, fai la regolazione, lungo l'acido. Cioè, se vuoi dato 100 euro, ma fai mettere 50, ma dopo un pollo. Non so, ma mi pare che abbia aumentato, provo a chiederlo, ma mi pare che abbia aumentato. Sì, ma non lo faccio. Chiedere a Luigi, magari lui riesce a farselo fare. Ma se vogliamo, oggi. Il microfono però non ci va bene. Qual è il microfono? Quello che usi normalmente, si può non ci tiene. Mi chiamo un po' di giro, non mi tiro di cosa. C'è problema per quello. Ah, non mi so, mi si può fare. Che cosa girare? Noi siamo in tanti, ci dirà. Sono poche e nulla. Perciò non è che... Sono poche e niente già. Troppe spese. Vabbè, pazienza, non è questa volta la famosa, la prossima volta spero che vada meglio. Certo, non è che può andare peggio. Dipende da te. Adesso vado a mettere a cucinare una bella bistecca di capo pollo, torno dopo. Ma è sempre sul 21. Lì andrà bene meglio, Buona bistecca. A casa mangio qualche cosa e poi magari entro. Andrà bene vera. E tu Natali mandicato a te e via mi riesce a fare solo e te la pongo solo se te la dieta sei Natali. Ho fatto il carburatore, gli ho rifatto tutto il petto, la salì e perché insomma anche l'altro la vuole passare, ma non si fida, quanto basta saperlo ribattere, io non glielo so fatto ribattere, e va, che è un pennello, non sa di perché. Stiamo contrattando e ogni tanto succede qualche cosa, ma l'ho fatto apparire perfettamente a posto. Infatti, io ho tutti e due gli accelleratori che non funzionano, non prende tutta l'accelerata, i soldi me la sorte ha. Diciamo, l'ho preso da poco un altro perché ho fatto un tiro via, ma sai che vogliono buttarsi. Adesso gli ho dato un po' sul misurino per fare la miscela con la giusta, ho detto guardi che la levitosa è giusta, perché altrimenti se sbagli la dose dell'olio che la miscela è magra, non è grippa. Quello è poco ma sicuro. La miscela vuole giusta, perché sennò molto ci mette a ingrippare, come scalda noi. E infatti, dobbiamo l'occhio che non so che fa nulla, hai capito? Poi Natalini, gli ho detto non tenerlo sempre in continuazione, di farlo riposare, hai capito? Così ti riposi tu e niente, perché è roba che scalda Natalini, se trova la miscela magra, KO, e già noi ne abbiamo cambiato. Non si potevano rettificare oppure mettere il cilindro e pistone nuovo e tornava nuovo. Non è che ci devi buttare per così poco, no, già. Non si può rettificare, Natali, perché c'è la canna cromata, già. C'è la canna cromata, l'altra volta, senza dirmi nulla, è andato, ha comprato cilindro e pistone che è della stessa che è attaccata al cilindro. Fissa, sei Natali, aspetta, ci siamo altro invece spogliatore. Ma la sorte apposta lo fanno, ragazzi. Lo so che ci vuole un sacco di soldi se prendi il cilindro nuovo, se c'hanno la canna cromata non si può fare niente, giustamente, ci vuole il cilindro nuovo già. Poi perché c'era molto zappa, 32 anni, già l'ho fatta sempre io una volta, era rotto il pistone lì, l'ho fatta rettificare, e mi ho fatto la rettifica, ho fatto piazzato e da sempre funzionando bene, no? Questa era una roba che c'ha il carburatore, la taglia automatica che si muove man mano che si accelera, capito? E il regolatore quello lì, a furia delle vibrazioni, lo stone si era, diciamo, è capito, paralizzato. Ha fatto passare il petto e le saltate si spegneva e sono andato stasera glielo metto a posto, no? Perché l'ha fatta bene a questi quindi più che glielo quadricola a ribattere, ha detto non ci fidiamo perché insomma non ce l'hanno mai contattato perché io ho contato il carburatore e questo spesso si infilava dentro la farfalla, l'ho lettato, gli ho fatto la ripartitura sulla tappeta, lui si è affittato e li ha posto, no? Hai capito, se no, se la lasci lì magari fra poco, non è che sia, ma fa poco, però lì si dicono una cosa per un'altra e hai capito, magari se non ce l'ha fatto lui l'avrebbero ripartito e chissà cosa gli avrebbero fatto pagare poi. Infatti, perché non ci sono ladri e non bisogna affidarsi molto di questa gente. Adesso del mio decespugliatore non mi hanno tolto piedi, adesso devo cercare un amico mio che ha lavorato con me, che è meccanico, aggiusta proprio di queste cose, e lo faccio salire qua e me lo faccio aggiustare, perché quello che me lo vede lo aggiusta ridendo. Infatti Natale, anche io faccio le moto, faccio queste cose, molte volte glielo guardato, però l'altra volta era lì, ho montato, c'era il sopo nel pistone, proprio a scaldare ho lavorato sertorio, non c'era l'olio che non gli arrivava la percentuale giusta, hai capito? Questo qua, qui non ti posso fare nulla, questo qua può andare come se si trovano i pezzi a un prezzo accessibile Natale, però non puoi pretendere che il tuo pensiero lo portano, non è il spogliatore che porta 130, hai capito? Rischiamo. Infatti. E poi per il resto già siamo attrezzati, non mi interessa dichiarare come si chiama, lo ripeto, hai capito che facciate quello che puoi trovare. Che ci ha pulito il dirigino per il fuoco, perché l'anno scorso noi ce l'abbiamo pulito, Natalia. aspetta, quello di vicino non è pulito, è passato il fuoco che aveva mangiato un albero o un pelo di oliva. Questi alberi sono puliti e non c'è nulla da fare, è pericoloso in effetti. Infatti, ma speriamo bene, Natali, speriamo bene che la gente vinci tutti, come si chiama, le accolate, come le prendiamo noi, Natali, perché un attimo, capite, ho portato il pulito, il foto, c'è quello che è, e secondo come parte, dopo si fa dentro, è un peccato, perché dopo poi passa tempo suo, quello ci dà fuori, per cosa dopo, per passare una passata di fuoco e ti distrugge quanto c'è, non va bene, quindi anche i comuni però devono lì, diciamo, provvedere a venire i proprietari e poi non puoi che ti facciano le sanzioni. Certo. E adesso io come quella roba della ricerca di pesca e poi già te la fa, così me lo porto a giro. E a chi? Papo, io non te la puoi fare, e lui è attivo, se non è una persona che è filiato, un fisico. E dopo lì ho dato qualche volta a tenere anche per non per dipararsi, capito? Beh, se a pescare ti sbagli simili, poi c'è divertimento lì, perché i pesci non è come al mare, lì li prendi, c'è poco da fare. E se non assali io, che pure un tu fai il cuore a ruggi da tragosa, no? Non è che devo andare per forza per prendere i pesci. Se cane ci sono poi quattro attacchi, attacca il tanto, ci mangia altro anche. Anche quello c'è. Già lo so già. E comunque, già uno si sbaglia, si rilassa lì. Va bene a fare quegli sport lì. Infatti adesso me la devo fare anche io, l'ho già compilata la domanda, me devo solo fare le fotografie perché non è. Anche io non so, devo fare le fotografie perché non ne ho e me le devo fare. E niente, gliela devo. Poi arrivo a casa direttamente. Certo, arrivo a casa direttamente già. Ok, io domani aspetto se si deve male, nel foto domani se mi si può fare, sta salvo a oggi, non sai una guardata di me ne faccio un fatto, come e così quello una decina nelle stampe, e così ne faccio e perché poi mi darò anche quel certificato che ti avevo detto del pronomastico anche lì. No problem, tanto c'hai tutto, ti hai volato tutto così. Ma quello ce l'avevo io già stampato e compilato quello del certificato. Solo non l'ho sempre fatto quello là lì, perché pensavo che dovevo essere proprietario di un pomolo, di qualche cosa dove c'era la radio a bordo. No, quella è della licenza. Per la licenza devi avere la barca e la radio e vengono loro a collaudarla, no? Però per il certificato non ci vuole niente. Ma tu ce l'hai quel certificato? Sì, c'è un anno che ce l'ho. Ma poi Natali dico, la vuoi rinnovarlo oppure fare per sempre? No, sempre quello è valido. Ok, una volta potrò fare, oddio, tanto queste cose sono belle a me, non è che mi so perché il mare Natali non temo, di non temo, che, però a me non sai come sono fatto, se queste cose gire mi piace a me, anche quello di essere più quelle, non c'era più bisogno, può affrontare senza nessuno, ma io ci tenevo ad avere l'attentato e me l'ho fatto fare. Anche perché se fai qualche contest devi avere il nominativo, capito? Se no non serve a niente se non hai quel nominativo. E quindi quel nominativo è quello che ti ho detto io. E se non più puoi, numero 1, farà 63, tanto di quello io, no? E io, me lo potevi far vedere, almeno guarda il ramo. Se non ho fatto parlare di Michel Antari, o no? No, negativo, non me l'hai fatto vedere. Ma no, te lo ripeto, lo faccio vedere, ma è come ci chiama? chiama, che è proprio un peso, è una cosa fatta bene, ministero, epidemiologo, che fare un quadretto per il suono, e che ti va a chiamare l'altro giorno, non lo so, fatelo da mamma, mi sembra che io c'è quello come questo non me ne ricordo, perché ho passato tanti anni, perché quello uno di storia mi ha detto l'altro incontrato, ma ti ricordi anche, mi sembra che c'era bevi, non mi dà peso, no, solo sì che c'era bevo, però se da mamma mi tiene che vestito. Però sì, un po' saturo già, sì, ma in saturazione, sì. E adesso lo mangiamo. molto piacere. Ci sentiamo alle prossime. Ciao, ciao. Grazie, la salita di cambio da parte loro. Ciao, ciao. Secondo mio parere. Allora, anche per te, Anto. No, lui. L'altro è più corposa. Tanto devo regolare, ma questa forse è più chiara, così è già. È più chiara, come non è rimbombante, non è metallica, altro c'è, rimane un po' rimbombante come voce. Prova a rimetterlo. Ma sembra leggermente citofonica. Guarda, allora così è, diciamo, è a 5. Così è a 5 già. Tu che è l'altro? Quello di prima, così a 5, così a 6, così a 7, così a 8, così a 9 e così a 10, capito? Sembra come se ci sia un vuoto attorno a te, capito? Ti dà questo effetto camera. Ma sì, allora, così è, diciamo sì, e forse è l'unica, la migliore che c'è. Non ci ho capito nulla, perché se parli sopra non si capisce l'uno nell'altro. Aspetta un attimo, cosa stai dicendo, Luigi? Giustamente vuole, adesso per esempio sono lontano 50 centimetri ed è a 6, a numero 6. Così è perfetta, se parli così a questa distanza va bene. Forse come stavo regolando ero troppo vicino, per esempio così è a 7, dimmi se va male a 7. A 7 e così è 8. Sempre lontano però. A 7 va bene, sino a 7 a 8 già rimbomba un po'. E allora lo mettiamo 6 e mezzo. Va bene a 6 e mezzo. Cappa, adesso è chiaro. Però se va meglio l'altro non ci sono problemi, l'altro è un microfono normale. Va bene anche questo qua adesso. Regolate in questa maniera, con questa distanza va bene. A me mi piace più questo, l'altro c'è la citofonica un po'. Ma questa è la di Parigi, questo adesso come? Adesso è cattedrale. No, adesso non mi piace brutto. E la volta che c'è il pulsantino, come ce l'hai tu nelle, in quella parte dove c'hai tu, no? C'è l'eco, lo schiacci, c'è l'eco. Fatto pronto da ritirare. Luigi in camion. Ah, Luigi, per mantenere, ecco qua, sto sapendo, Roberto. Non lo so, adesso ho aumentato un po', ma da quando ho fatto quello di Coso, di Pierpaolo, che ne voleva di più e gliel'ha fatto per lo stesso prezzo, poi ha detto che non ne faceva più, perché io poi gliel'ho detto, vabbè, dice questo, però non ne faccio più, mi ha detto a quel prezzo lì. E non lo so quanto voglia, secondo cosa devi fare, capito, però ho aumentato qualche cosetta. No, Luca Riello lo voleva fare, però è per i 100 euro che non li danno. Sai cos'è, Gianni? Che ti devi prenotare adesso, devi aspettare mesi. Prima no, non c'era bisogno, adesso devi aspettare perché ne ha parecchi, capito? Ne ha parecchi e non sa come fare, hai capito? Come sono tutti gli altri su, che devi aspettarlo 5-6 mesi. E così è lui, è diventato lui adesso. Vai da un po' come viene a essere. Signore, come a fare baracchini e mollare solo la foro. Ti sto dicendo che allora cosa sta dicendo? Sta dicendo che aspetta anche lui, capito? Perché tutti stanno rivolgendo a lui adesso, hai capito? Anche qualcuno da sul continente lo stanno mandando a lui. Ecco perché lui sta iniziando a aumentare il prezzo anche lui, capito? Ci siamo salvati un buon valore. Positivo, no, lavora bene perché lavora bene, non c'è da dirgli niente, lavora bene, te lo fa a piacere tuo il baracchino, Capito? Adesso vedi il mio, quando arriva il mio. L'8001 a me l'ha fatto diverso ancora e se mi pare te lo stavo spiegando prima. Te l'ho detto pure stasera, ma me l'ho già dimenticato e lo devo provare se non va bene, però queste cose le fa a me. Se tu gli mandi quello, lui ti fa quello stand e fu, capito? Li fa a me perché gli do molto lavoro e ci fa tutte le prove che fino a quando non trova il miglio che mi fa bene, dai. Adesso vediamo come va questo 2001 col nuovo ecco. Dunque non si è aggiornato con l'accendi e spegni, con tutte queste cose qua, è sempre con la calamita. No, ne fa, dai, ti fa spendere che cosa di più, dai. Cosa di più se lo vuoi col telecomandino, te lo fa, è la stessa cosa, è la stessa funzione al telecomando, fa la stessa funzione il telecomandino delle cose, se no poi te lo puoi fare del N40 e schiacciare la portante e accendere, lo metti nel 40 e schiacci la portante e accendi nuovamente e si attiva. E tieni me il canale? Per attivare, lo puoi fare anche sul, tante cose puoi fare, capito? E fa, te lo vuoi, te lo fa sul 40, te lo fa, solo con il telecomando te lo fa, ma ti fa pagare di cosa di più, e dice, non si cambia nulla, la stessa cosa, fa scattare sempre il relì, capito? Dal contatto al relì, l'impulso al relì, capito? Vabbè, più smai, che il pallone è entrato, sì. Ciao, ci sentiamo. Ciao, Felpa, se mi ascolti, sempre se mi ascolti. Capito? No, c'è la telecomanda, no? Dice, poi ce lo spetti da una parte, stai lì quando devi accendere, fare, deve sempre avere la portata di mano, capito? Paga. Diciamo che anche questa calamita è un po' una rotta di scatole, è meglio quello con la portante, schiacci la portante e ti cambia. E la stessa cosa, è la stessa funzione, non cambia, le funzioni sono quelle, ne ha fatto così, ne ha fatto richieste così, addirittura ne ha fatto qualcuno che tu lo schiacci, che lo attivi, schiacciando, quando allora accendi, devi schiacciare, visto dove ti fa il coso del 48 le stazionarie. Quella sembra una paginetta rosa, invece tu lo schiacci col dito ed è il pulsantino, è attiva. Non è che qualcosa l'ha fatto così, l'ha fatta Paolo di Cagliari, l'ha fatto così, addirittura quello rimane le lampadine verdi, disse, ma allora la patina, no, la patina è verde, no, lo Smith rimane verde, e il baracchino dove c'è illuminato rimane spento, nei pomelli, capito? Quando lo accendi tu che è normale, rimane spento senza le luci blu, e nel display rimane blu, invece quando tu col dito che sembra una lampadina rossa normale delle stazionali, quando ci sono stazionali, tu schiacci quello lì e si attiva tutto di blu, si accende tutto. Quando lo spegni si spengono anche le luci, quando tu riattivi si accende solo la luce dello Smith, ma la luce sua normale è gialla, hai capito già? Stavi dicendo volevo chiedere a Luigi, ma perché non modifica sia microfono che apparecchio? Microfono? Cosa il microfono a tu? Microfonia che si adatti bene all'apparecchio, perché sono dei casi che certi microfoni non ti fa la voce proprio bella, raga. Lui lo fa con GTE, capito? Lui c'ha il GTE e lui lo prova con GTE, capito? Lui lo prova con GTE, capito? Lui li fa con GTE e li prova con GTE che c'ha lui, la luce GTE, quelli classici GTE, i microfoni, capito? E lui le fa con quelli lì e le tara con quei microfoni lì. Scappa. Con GTE, ma se ne trovano? GTE. Ah, GTE, boh, ma non lo so, ma molti non si adattano, se no, cioè, se devi mettere il microfono GTE magari si fa la voce un pochino comica. Boh, io quello che ho io, ho GTE normali, quelli originali e vanno bene, io il camion ho GTE. C'ho il GTE originale, va bene, ho provato altri MIDI del Midla, tipo GTE, dell'altro, niente da fare, neanche l'altro che ho preso a tuo padre, neanche quello, solo il GTE è l'unico che si adatta bene, anche nel 48 io il GTE l'ho operato, ne ho 3 o 4 di GTE e me li tengo, anzi ne ho anche uno nuovo, me l'ha mandato Maciste, col pulsantino. Solo GTE, i miei vanno con il GTE solo, tranne che quella 87 va con GTE, ma andava con quel microfono che ha usato tuo padre, abbinato, con quel microfono non so per quale motivo usciva che è una meraviglia. Allora c'è quello che tu lo metti all'alba come, schioppeteggia proprio, ne ha fatto uno, e va bene anche quello. Anche a Gianni gli ha fatto la stessa cosa, il GTE non andava, ha dovuto fare una modifica, metterci un'altra capsula perché non andava proprio. Non lo so, io mi trovo solo col GTE, io modulo col GTE, se tu hai notato io sono GTE. I microfoni anche qua su questo apparato tu metti, io su tutti gli apparati che metto io con il GTE escono bene tutti, adesso anche qua io metto il GTE esce bene. Già mi confermi, lui ha messo proprio GTE, quello con la stessa GTE, ma no, allora ho dovuto pigliare la capsula del Galaxy, l'ha provata, l'ha passata e va meglio di quella là, del Midlux. Invece la 48, quello normale va molto meglio con il microfono CTR. È un casino. Tu sentite il 48 mio? Il 48 mio lo adopperava, l'8001 sempre con il CTR li adopperò io. Sempre CTR, non c'è niente da fare. Da me quando provo io la voce mia GTE, gli altri sono diversi, se non vanno bene. Però come riesco a capire. Allora, avanti già. Non lo so. Eppure dicono che quando li fanno fuori modificano anche quello, ti portano modificato. Non so se sia vero. Allora te lo mandano col GTE, col microfono GTE te lo mandano a te l'apparato. Non so cosa ha la sorte, li facciano dentro e dice che esce più come si dice, più possente, dai. non so che dirti. Non so che dirti. Non ha fatto Carmelo Marcista, cosa gli ha fatto? Questo l'ha visto a me, io uno me l'ha pregato Iurici Giombello a me. Non è prestato perché non è a me, ma mi ha mandato Carmelo e me l'ha pregato. E insomma mi ha mandato un altro Carmelo a me di quei microfoni lì, col pulsantino per schiacciare, non l'hai visto tu quello che c'ho io? E per quando fai, perché oltre a girare l'eco non lo disturbi, non senti il rumore, esce pulito. Quello che l'ha mandato il GT e l'ha mandato Carmelo. Ecco, ha fatto una bella modifica. Quello che c'è quel pulsante continua, wow. E sì, ma che c'è un rumore, lo senti, uno deve sentire l'eco pulito, capito, gira pulito. Cosa l'ha fatto, Ah, non so fare anch'io quel lavoro lì, ho fatto qualche altro lavoro, microfono. Ma che ragazza. Comunque, le senone, cavolo, è molto bello, cavolo, si è modificato bene, è una bomba, Una chiappa. Mi sentiva Carmelo Macchizzo, è riuscito a parlarci anche. E lui l'ha fatto quello del pallone, l'ha fatto per meno maciste, il magno. Se fa lui, se praticamente fa, perché siccome ha due microfoni, una parte normale e una parte con le cotrozze. Ma come ci attiva quello lì? Attacca il microfono e vai, come te. È positivo, però c'era il coso che tu giravi il tasto, il pavello, lo giravi e lo faceva normale anche, usciva normale il micro e il barattino, come esce il bagno normale. Ciao, ne ho sentito molti, ne ho sentito di quello. E vanno, perché io cerco sul computer, su YouTube. Vanno alla grande, vanno, ce n'è uno che c'ha la bandiera c'è, la bandiera americana nella mascherina, ma è una bomba, invece si è pintato oggi da fallo, Piero Vecchi ce l'ha così, Piero Vecchi, avrei visto quello di Piero Vecchi, tu, Piero Vecchi ce l'ha così, anche il microfono c'è la bandiera, il CD c'è la bandiera americana, non solo hanno aggrappato tutto il baracchino e il microfono, compreso il microfono. Sì. Adesso dice che è uscito questo maio. Ecco maio. E l'ecco maio, il maio a me. Piace ma non piace, capito? Perché è la stessa cosa del colto. Il colto c'aveva la scheda e poi la limitazione l'hanno fatta, l'hanno messa nell'ala 48 la scheda del colto. Però il colto che modificano e tolgono la scheda e mettono la scheda colto che hanno fatto nuova, hai capito? Maio c'è la stessa cosa, una scheda tipo il colto, si assomiglia molto al colto, se tu ascolti un colto c'ha un eco tipo questo. Forse è quello che ho sentito da poco, ma magari con alcune modifiche si riesce a fare tipo colpe, dai. Io non so se tu hai mai sentito quello di corde d'acciaio, che a volte viene cercando a me qua. Fa tipo effetto cattedrale, se ne senti tutto per sotto, una cosa del genere, tipo un reverbero, dai. Ce l'ho una cosa così che fa quella scheda tipo Maya, ce l'ho io, ce l'ha Roberto Cosa, fa proprio quella scheda lì, tipo Maya. Ma è un baracchino, come può essere il Senope, e costa un casino di soldi, costa un bel denaro il Maya, è un baracchino ed è completo di scheda, ecco tutto quanto, e c'è quella scheda e fa... E l'altro giorno si sentiva una propagazione, mi pare che il forte sembra una chitarra elettrica, non l'hai sentito mai quello lì? Ma te l'ho sentito già, che strana cosa. Secondo me è sempre meglio la colpe, perché ti può dire anche un po' sente. Andrea Brizzi, noto corda d'acciaio, a volte viene qua, non so se l'hai sentito quel baracchino, la spacca e timpani, non so se l'hai mai sentito. Forse non ho mai avuto l'occasione di sentirlo. Caparò, già capita qua, a volte sta cercando Gigi Vulcano, lo senti che chiama a me. Quello lì, ascoltatelo col baracchino, quello è il Maio, c'era lui e Galluresse, e Martino Galluresse. Ma c'è la corte dentro. No, c'è anche la sua del Maio. A cosa di Martino Galluresse l'ho sentito, c'è come ricordo. E ce l'ha due, c'è il Maio è un baracchino, mia mamma che è baracchino, Emi. Ciao, pensavo che gli aveva messo, io l'ho sempre sentito volare la popolazione, che è sempre volare con il corpo, la raccolta. Dice che c'è il 48 lui, capito, però a volte mette quello che sto dicendo io, il Maio, poche volte lo mette Martino Galluresse, e c'è un effetto di cattedrale, capito. E c'è l'Andrea Brizzi che a volte lo mette la chemise in miglia attaccata, poi lo tuge, capito? Però è bellissimo, c'è una vocciola che fa una voce che è una chitarra elettrica, ma... E magari non piace molto quella... Però c'è nulla da fare, molto meglio la colta, però... In questo cosa qua è molto meglio la colta. Così fatta in quella maniera, poi se miglioreranno anche quella si vedrà, perché si può migliorare, penso. Quella ho fatto qualche lavoretto, quello di Andrea Brizzi, sto facendo io, ce n'è uno che fa proprio, sembra simile al Maio di cosa, una scatola e quanto microfono da tavola, una scatoletta così che si attacca al baracchino e si attacca al microfono, e c'è una regolatore come c'ha il pomello sopra, fa viva voce, fa il bip, fa il coso, e dietro c'è un altro pomello che ti dà, fa tipo con la chitarra elettrica, lo puoi aumentare e abbattere quanto vuoi tu. È quello che ho sentito io già. Ciao, mi ha chiesto. La faccio dare a Roberto, l'ho dato se riusciva a fargli qualche effetto diverso a quell'eco lì. Se riusciva a fare qualche effetto diverso. Però non ha avuto mai tempo, c'era sempre imputato una parte. Me lo faccio vedere, te lo faccio ascoltare. È una scatola, non mi ricordo neanche quanto l'avevo pagata. Non mi ricordo quanto l'avevo pagata. Fa tutto, fa l'ascolta, fa... Quando puoi essere staccato, disattivato, e fa dal microfono normale, capito? Perché devi mettere un microfono tipo GTM attaccato a questa cosa, una scatoletta che amplifica, capito? Che fa l'eco amplificato e c'è un paio di regolazioni. Da cui va attaccato lo sviluppo del baracchino? Positivo. Già sentita già quella scatoletta là. Me l'hai sentita qualche anno fa, se ce l'avevo lo trovavo ogni tanto. Non c'è mai riuscito a ricavarne nulla. No, non l'ha mai presa in mano, ce l'ha sempre lì, infatti me la faccio tornare. Me la faccio tornare. Certo, voglio riuscire a migliorarla, a farle qualcosa. È bella, quella è bella, bella se vuoi fare tipo effetto Maio lo fa. Capite, se volevo se riusciva a fare qualcosa era bella quella scatola, perché c'hai tutto, c'ha il bip, se lo puoi mettere, se non ce l'hai tu, c'ha il far l'ascolta e non innesca nulla, e c'ha la regolazione dell'eco, aumenta, fai il rivevolo a tipo metallico, se lo puoi fare tipo come vuoi tu, cupo, chiaro, c'ha tutti i pomelli a regolare. Certo, e se l'avevo sentita già. Insomma, stavi anche vendendo la strada. Sì, andavo vendendo e ti ricordi di fare da dove mi ti usavo e poi ti ho dato a Roberto se riusciva a fare qualcosa. Ma non ha mai posto, non mi ha mai messo mano. No, adesso me la faccio ridare, se no va a fine male, fatemi venire male, sei capo. Non si è. Sì. È puro. Zero di zente, basta qua, non ha messo più. Stavo pensando, con il discorso di poco fa, stavo pensando, dalla cucina e poi non ne vale la pena, perché di mettere la, il coso, il telecomando, perché se ti ci spara, cosa fare? Io vi chiedo la rondella e torna. Non lo so, se ne valga la pena. Capito, Anto, di che cosa stai parlando? Di quello che stavo parlando poco fa con Gianni, volevo intervenire però stavo ascoltando, vedo che non ne vale la pena di mettere il telecomando, perché se ti si rompe il telecomando poi cosa fai? Devi tirarla a una rotella, cosa devi fare? Così, sì, ma non te lo consiglia, lui se vuole te lo fa, costa di più col telecomando, ma non te lo consiglia, non te lo consiglia lui, capito? Ma non te lo consiglia lui, lui te lo fa con il telecomando se lo vuoi, te lo fa come vuoi, però non te lo consiglia. Allora la panfina è meglio una caramella che ha cosa, due gentili. È positivo, positivo. Ma attaccare attaccano sul 40, ma io sono, non lo so. Molti lo fanno sull'8001, io detto di non farmene nell'8001, non me la frega niente, lasciarlo libero. Ma un pulsantino mi sembra che sia vero. Va bene, però ho detto di lasciarlo libero, di lasciarlo libero l'8001, non ne voglio di niente. Va bene, sono cose aggiuntive, sono. Allora, adesso in questi giorni me lo ritiro, pagate tutto, l'ho pagato. Da quando gli ho mandato, gli ho mandato insieme ai soldi. Prego. Ah, va bene. Buonasera. Buonasera e ben ascoltato qua, Ben ascoltato, come mai si è arrivato la bomboletta oggi? E sono tutto al minimo, Perché sono tutto al minimo? Qualcosa hai fatto? No, non ho fatto nulla. Ti sto dicendo che sono al minimo di fatti proprio. Cappa veloce, una bella radietta. Sì, questa è una radio, un baracchino diciamo, è un baracchino che va bene, è un baracchino che dà anche tante soddisfazioni questo. Cappa, me l'ha soltanto Antonio Bobo. Ascoltato anche a te. Cappa. Carlo Gigi. E mi sono trattenuto per fare una chiacchierata e... Non sollevo perché diciamo ho detto passo in parte qua io, proprio a minimo e vado anche forte. Certo, già lo credo. Tu mi devi inventare a me un baracchino Gigi che vada il più lontano possibile. Fatto da nome, io quando vado a Cagliari lo porto a Inglesia, lo porto sempre lontano io. Gli voglio dei soldi. Guarda, nella vita anche si può fare tutto. Il baracchino che c'hai tu si può fare tutto, hai capito? Tutto e di più, capito? Ti puoi mettere... No, la terremoto delle matte ce l'hai già. No, non ne hai tu la terremoto delle matte, quello lì, giusto? Certo, non ce l'è. E si può fare. Si può fare... Se lo puoi aumentare l'aumento, se vuoi abbassare la fase, capito? Certo, quanto lo puoi portare al massimo? Al massimo quello cos'è? Mi sembra che quanto va... Dovrebbe andare intorno ai 15 watt, quello lì, giusto? Ehi, sì, ma non serve a niente avere tanti fatti, fatelo anche 10, sceso a 10 va anche meglio, la radio è più corposa, più bella, capito? Gemello Luigi Vulca, gemello di quel masculaccio che sai, è preciso identico. Sì, ma io non so già, sto dicendo che si può, quello mio arrivava... Cazzo, saliva parecchio come fatti prima, l'ho fatto ridurre io, se no quello lì arrivava, era 25 fatti, saliva quel apparecchino lì. È stato ridotto, se no non tanto non era bella la radio, inutile che tu giri il pomello e lo porti fuori. Ah, cioè questo che sto modulando io, questo apparecchio. baracchino, io l'ho chiusi da dentro, infatti, li posso aprire, e girandolo al massimo arriva a 40 watt mi dammi questo baracchino qua. Eppure io li ho chiusi a 25, lo faccio andare oltre 25 al massimo, però non glielo do, per adesso io, sì o no, ci avrò, e te lo posso anche dire, e te lo confermo, guarda, perché io lo prometto, te l'ho attaccato e te lo guardo, guarda, e dico quanti watt ci sono. No, ci sono, dico la verità, 9 watt ci sono. Già passano, a voglia, ma tanto poi non serve a niente, amici, soprattutto ti devi fare, mettere la scheda a corte, eccetera, eccetera, non servono a niente di quei watt. Dopo di quello deve andare un'altra cosa, deve andare, cioè no, a 3 watt va benissimo. Quanti voglio riprendere io a Giulio? L'altra sera tu cosa mi hai detto a me? Già detto! Quanti riprendo io? L'altra sera tu a me cosa mi hai detto? Cosa ti ho detto l'altra sera? Quando c'era la propalazione, che chi ha più watt esce di più forte, così mi hai detto, no? Esattamente che sì, ma tu non hai capito il discorso, Luigi già mi ha capito cosa vi voglio dire. Tu non hai compreso il discorso, cosa, com'è, cioè praticamente 3 watt, poi dopo quello deve esserci un'altra cosa, capito? Già capito, che senso ha secondo te aggiungere un'altra cosa? Ma che a te, Antonio? Maldetto, allora tu non ti a me in camion, quel baracchino che ho io, no? Tu quello lì, se tu lo controlli, io ce l'ho quei fatti tutti chiusi, quello che adopero in camion io. E esce con 2,8, neanche a 3 arriva, 2,8. Io a volte, io quando sono la mattina che mi tuo, che parto dagli punti e coso, o che sono a Campomera o che sono a coso, io sono staccato, sono senza niente, sono con quei due fatti, quei due fatti, invece c'è quello di Gianni Gippone, che è fatto nello stesso, quasi nello stesso modo, ed è fisso a 10 watt da dentro, è bloccato a 10 watt, quello di Gianni Gippone. Io con quei 2,5 watt, 2,8 watt, me lo metto in tasca e me lo quando voglio me lo metto in tasca. Lavorando liscio? Liscio, sto parlando liscio io. Ma, vabbè, si crede. Tu a me mi ascolti a volte, ti abbiamo fatto tante volte e te l'ho detto, guarda io sono 2,8 watt, e io sono con 2,8 watt perché spento, quando ti faccio le prese, poi quando attacco ti faccio vedere la differenza, hai capito? Però ti sto dicendo, ho fatto, ecco, per esempio quello di Pierpaolo mio figlio, detto, gliel'ho abbassato io, gliel'ho fatto mettere, perché lui lo teneva a manettone infatti, gliel'ho fatto abbassare su ultimamente, gliel'ho fatto girare e mettere a intorno ai 2,5 watt, 3 watt. Vedi dove c'è forte pure lui adesso, con quel baracchino lì, la radio più corposa e lo senti più in lontananza. Già si conferma, non è già vero. Perché sono più forti in radio, hai compreso qualche. Poi come va a lavorare non sono più 2 watt. Sono almeno 5 penso. Aspetta, c'è stato un break, facciamolo venire avanti, avanti il break. Ciappatore, come è? Saltone, dai. Compagnia di Cicino Vulcano e di Antonio Popolo a Sierra. Avanti Gigino per Tore da Itere. Io a Tore l'ho sentito proprio pio, Tore, non so se tu mi ascolti a me. Visto che non mi ascolta tanto forte, non mi ha ascoltato. Guarda se mi ascolti meglio, perché tu qua mi arrivi molto al limite, Tore. Questo passaggio mi ti ho ascoltato anche meglio, dai. Mi ho ascoltato anche meglio. un pompatino di radio è da me. Un pompatino di radio mi arrivi, Sì, così è sollevato un po'. No, perché dai tiri, buono me, dai tiri arrivano abbastanza forte qua, Adesso va anche meglio, dottore. Antonio Falchetto l'ascolti bene perché lui è lì, essendo lì all'uscita di Alitalia sopra, è un po' alto lui e lo prendi e ce l'hai di fronte, capito? Io sono invece dentro un fosso qua, capito? Direzione Porto Torre, se sono più in basso io. Il cappatore, che ha pagato, sì, in effetti confermo quello che ha detto Gigino Vulcano, la radio è aumentato e... è perfetta, dai, anche nella mia postazione le va abbastanza bene. Riprendi Gigino e fai girare anche per Antonio Pomola. Facciamo girare Antonio, Antonio tu ascolti, dovresti ascoltarlo, Antonio, dai, vai Antonio, perdone. Sono il tuo vittore, io non l'ascolto più troppo, non l'ascolto per niente perché è troppo basso. Faccio il tuo RM troppo alto qua, quindi non riesco ad ascoltarlo, ma Gianni Doppiolo che fine ha fatto? Non lo so. Ma tu dove sei? Ah, solo tu non c'è un'antenna, c'è un'antennina tu, giusto? Tu. No, c'ho la... c'è un'antenna, non è che sia antenna, l'ho detto. C'ho una 2000 turbo Sirio, c'ho. Ah, positivo. Conosci? Fino al 2001, già, è così. 2000, la turbo della Sirio. Ah, no, io dal 2001 conosco. Allora, è già la trovisa, la fanno ancora, La fanno ancora, quella della Sirio. Oh, non la conosco, io c'ho la 5000 turbo della Sirio. La 2000 turbo è questa. Fai girare per Tore, io fra un po' me vado a su a vedere il mio positivo. Appa, Gigi, anda bene, avanti Tore. Vabbè, lui è zona bassa, molto bassa. Santa di Pisa, se conosci di quelle zone lì, dai. Ma lui c'ha una 2000... una 2000 turbo Sirio, dai, dovrebbe essere di un'antenna di vettura, diciamo, dai. Esatto. Ah, quando vuoi, intanto Gigino sta chiudendo perché deve andare a vedere un po' di TV. Antonio, vabbè, intanto non ascolti, Antonio, se hai un po' di pazienza, passiamo un attimino l'FM e facciamo la provetta. Dai, Tore, saluta Gigino Vulcano, intanto sta facendo quel VT. Avanti per i saluti, Tore, così passiamo l'FM, dai. Poi ascolto un attimino e poi me ne va. Cattore, vai in FM.